sick look. Sta roba mi fa sentire in un qualche modo come quando hai qualcosa in macchina e stai passando un posto di blocco. Ti faccio sentire in un certo modo quando ti passo a fianco accecando te che accanto con un lampadario al collo. Puzzo come mezzo cappa, ti faccio storcere il naso. La tua tipa ne da un'altra, poi gli si storce la faccia. Ne ho appena spesi 1000, sto cotoletto, cotoletta. Ho detto a mio fratello, guarda, dammi il culo e faccio lo stesso. Ne ho appena spesi 1000, sto cotto lesso, cotoletta. Ho detto a mio fratello, guardami il culo e faccio lo stesso. La mia ragazza segue la moda, io seguo i soldi e la droga. Sono un pesce grosso, tu sei una trota. Giochiamo con le palle come una foca. Abbiamo crack musica, crack coca. Chiedi chi è che lo fa a Roma. Sgocciolo, mocciolo, lascio scie per strada come un lombrico. Non parlarmi, non ti arriva il cazzo all'ombelico. Sono un giovane veterano, tu sei un bambino piccolo. Pensi di fottere la dark, penso che sia ridicolo. Abbiamo un piano in testa, soldi in tasca, alti come un libro. Stiamo in studio quando sei a casa, in casa quando sei in giro. Non siamo la stessa cosa, siamo arrivati su un disco volante. Mi sento stretto, la terra non